Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. Buonasera, buonasera di nuovo a tutti, bentornati su Risto Radio Convento. Siamo live in questo sabato notte, sabato 8 dicembre del 2018, e stiamo raccontando la serata anche attraverso le voci di chi la sta vivendo. E queste che ho vicino a me sono voci molto molto giovani, molto molto fresche, e stanno festeggiando la loro coscrizione e i loro 18 anni. Benvenuti ragazzi, la classe di Mezzo Corona. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Oh, senti, senti come sono corali, senti come sono tutti insieme. Allora vai, aspetta, scusa, accendimi la luce se no non vediamo più. Bravissimo, grazie. Allora vai, presentazioni ordinate uno per uno così vi conosciamo anche. Inizio io, allora sono Sebastiano. Bravo, mi piace la democrazia di questo ragazzo, che dice inizio io. Vai, vai tranquillo. Mi chiamo Sebastiano e vengo da Mezzo Corona. Beh, tutti vabbè, va bene, non ti preoccupare, ci mancherebbe, va benissimo. Vai, prossimo. Sono Davide, vengo a Camille da Mezzo Corona. Bravo, poi vedi lui, proprio tradizione, tradizione col dialetto, vai. Mi chiamo Gabriela. Ok, Mezzo Corona, quello abbiamo capito. Io mi chiamo Sara. Perfetto, prossima. Natasha. Matilde. Gnogni. Chi è? Giulia. Ah, ecco, infatti no, non capivo, ho capito. Io ho capito gnocchi per la prima volta addirittura. Pensavo che le fosse venuto un languorino e chiedesse da mangiare perché era venuto fame. Allora dai, Mezzo Corona, raccontateci un po' dove si trova per chi non conoscesse le vostre zone. Dove si beve? Vicino a Trento. Oh, vicino. Siamo della piana rottaliana. Tra Trentino e l'Alto Adige. Oh, bravi, bravi, mi piace questo, questo nazionalismo e le vostre tradizioni. Allora, state festeggiando, come dicevamo, la classe 2000, quindi 18 anni, e come ci piace fare solitamente, vogliamo sapere, visto che è quasi la fine dell'anno, chi ancora, se c'è ovviamente, deve compiere 18 anni, o li avete già fatti tutti? E fuori! E Mela! Li compie lunedì! Lunedì, l'ultimo, o c'è qualcun altro dopo? L'ultimo! Il pupicciol! Chi è, come si chiama? Alex Rubin. Alex. Soprannominato Mela, Apple. Ah, ha detto Mela, come mai? Perché mangiava tante mele. Ah beh, bello, certo. Beh, scontato, ma ci sta. Perché mangiava tante mele, quindi non avrà avuto malattie, perché come sapete che la mela al giorno toglie il medico ritorno, quindi sarà sanissimo. E invece chi è stato il primo a compierli, il primo fortunato? Riccardo Brovio. Quando? Il 27 gennaio. Ah, 27, quindi già alla fine del mese. Il giorno della Shoah. Poi abbiamo un'illustre studiosa, brava, brava, complimenti. Allora diteci un po' come avete passato i vostri 18 anni, cosa ricordate di questi 18 anni? Niente. Qualcosa di particolare? No, niente. Eravamo sbronzi. Nella normalità. Tanto alcol. Ah, ok. Mi hanno buttata in una piscina. Beh, bello, una cosa da ricordare, una cosa da ricordare. Con i vestiti, mi hanno rotto un'unghia. Secondo me l'unghia è particolare, è stata una grande sofferenza. E che hobby avete, ragazzi? Cosa fate di bello nel tempo libero a Mezzo Corona? Calcio. Canto. Calcio, canto. Ballo. Ballo. Ballo. Arrampicata. Arrampicata, che particolare. Ma arrampicata camminata o arrampicata a parete? Parete. Parete. Bello. Noi abbiamo il monte, andiamo sempre a camminare. C'è il monte di Mezzo Corona. Famoso. Beh, sarete in formissima, quindi avrete battuto tutti i record di Fitbit e di tutte le applicazioni per mantenersi in forma. Bravi, bravi. Quindi calcio, pallavolo. No, aspetta, scusa. Ah, lui pallavolo, lui pallavolo. Calcio, canto e lei che arrampica. Bravi. E bever, che è un'altra buona attività da fare nel tempo libero. Ok, volete salutare qualcuno? Volete salutare qualche amico fuori? Ciao mamma! Ciao mamma, sto bene! Ciao mamma! Ma la mia mamma è in Germania. Ciao mamma! Vabbè, le salutiamo tutte. Io saluto mio papà perché tutti salutano mia mamma. Brava, vai controcorrente così, no, vai controcorrente. Ti voglio bene! Era mi menone! Ciao Federico, ti manchi! Ciao rompazzo, stammi bene! Bella Fede! Bene, bene, allora salutiamo anche noi tutti i ragazzi e gli altri assenti, non perché non ci siano, ma perché sono un po' in pista e un po' perché non ci sono stati qui negli studi. Grazie allora alla classe 2000 di Mezzo Corona e buon divertimento per questa fine festa e in bocca al lupo per tutto. Ciao! Ciao!